partirai, quanta tristezza, forse la voce mia più non udrai. Amo spensieratezza, tutto scorderai, ma del tuo primo amore non puoi scordarti mai. Lasciami cantare una canzone con te, come vuoi tu, perché forse domani, amore, non ti vedrò mai più. Lasciami quest'ultima illusione, perché non vivo più. Lo sai che questo cuore, il cuore, me l'hai stregato tu. Piangere, che vale adesso piangere, asciuga le tue lacrime, non piangere più. Lasciami cantare una canzone con te, come vuoi tu, perché forse domani, amore, non ti vedrò mai più. Lasciami cantare una canzone con te, come vuoi tu, perché forse domani, amore, non ti vedrò mai più. Lasciami quest'ultima illusione, che vale adesso piangere, asciuga le tue lacrime, non piangere più. Perché